Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono sempre di più i punti oscuri che emergono nella storia di Andrea Slubitz, il copilota della Germanwings che per motivi ancora da capire ha fatto schiantare un Airbus con 150 persone a bordo contro una montagna. Gli investigatori hanno rovistato sia il suo appartamento di Düsseldorf sia la casa dei genitori a Montabaur. Si indaga su una crisi personale come motivo per il suo gesto, forse un problema sentimentale. Nel 2009 il pilota era stato in cura per depressione e in seguito avrebbe nascosto alla compagnia aerea i suoi problemi. Lubitz necessitava di regolari controlli medici, certificati trovati in casa attestano un trattamento in corso e lo stesso giorno del disastro il pilota avrebbe dovuto essere in malattia. Intanto si lavora ancora per il recupero e l'identificazione dei corpi. Per ricordare le vittime, una lapide in granito è stata posta alle Vernet di fronte al massiccio dei Troisvesges. Aveva tracce di un trattamento in corso, il copilota di cui tutti i giornali stanno parlando, andando a scavare nella sua vita privata per trovare il segno, la stigma della patologia invalidante. La fidanzata dice era un fissato, pretendeva di decidere con quali vestiti dovessi uscire. Mi sembra un motivo per cui una persona dovrebbe avercelo scritto addosso, dovrebbero tatuarglielo a lettere di fuoco sulla fronte. Quando va a strada le persone dovrebbero cambiare marciapiede. Questa persona pretende che la fidanzata indossi gli abiti che a lui più piacciono. Perché faccio questa trasmissione e apro con questa riflessione? Perché al di là della tragedia immane, sicuramente una grande, immensa e dolorosissima tragedia di un pilota che volontariamente si va a schiantare con l'aereo, con tutto il suo carico di passeggeri, vorrei vedere su quello che è l'atteggiamento invece, la rilettura, la lettura posteriori rispetto a questo fatto. Voi pensate che possa esistere una sorta di indicatore perfetto per determinare la totale sanità di mente di ogni essere umano? E quando un essere umano può avere la patente di non pazzo, in nessuna percentuale, in nessuna accezione, non depresso, non in sindrome di burnout, che significa una sorta di incapacità poi di gestire le proprie emozioni e alcune situazioni fortemente stressanti? Ecco, chi di noi può veramente dire io ho la patente, io non ho nessun sintomo, io non sono sottoposto a nessun trattamento, io non ho nessuna eco nemmeno lontanissima di depressione, di problemi di tipo mentale? In questa società è possibile secondo voi avere l'attestato di perfettamente sano di mente? E chi non ce l'ha non può fare alcuni lavori o non può operare in alcune maniere? Chi si alza ogni mattina e si mette al volante la propria auto tra le tante persone che incrociate lungo le strade? Siete perfettamente sicuri che abbia questo certificato? Vi faccio ancora una tesi più provocatoria che un neuropsichiatra ha lanciato su Facebook questa mattina. Ma tra il pilota dell'aereo che si è andato a schiantare sulle Torri Gemelle e il pilota dell'aereo della Lufthansa che si è andato a schiantare con il suo carico, è possibile capire che uno sia un pazzo perché ha compiuto un gesto immotivato e l'altro comunque no, non è un pazzo, è un criminale, un terrorista, quello che volete, ma il gesto che ha compiuto è un gesto comunque razionalmente spinto da una motivazione ideologica? 800240024. Sono stati confiscati documenti con indicazioni sanitarie che indicano l'esistenza di una malattia e della terapia prescritta dai dottori. Il fatto che c'erano certificati di malattia strappati, tra le altre cose che abbiamo trovato, che erano recenti e persino risalenti al giorno del disastro, supporta l'ipotesi che il defunto Lubitz abbia nascosto la sua malattia al datore di lavoro e ai colleghi. 800240024, quale malattia voi nascondete ai vostri datori di lavoro, ai vostri colleghi? Il fatto che non riuscite a dormire, prendete qualche pillolina, il fatto che vi sentite molte volte ossessionato, il fatto che potete compiere durante la giornata alcuni passaggi rituali ripetitivi per stare meglio, non vi piace passare sotto quella casa, non vi piace vedere quella persona, oppure avete degli abiti che preferite indossare rispetto ad altri, oppure delle giornate di caligine come questa vi mettono una sorta di ansia addosso, oppure le giornate a piena luce vi danno fastidio, oppure avete dei problemi nel fare le file negli uffici, oppure vi dà ansia gli ampi spazi, oppure non riuscite a gestire tanta gente assieme, oppure vi dà fastidio quando vi guardano fisso negli occhi, oppure avete problemi a guardare gli altri fissi negli occhi. Queste sono tutte circostanze invalidanti, dovreste farvi fare un certificato, perché la gente deve capire naturalmente che potete dare dei problemi, siete dei personaggi pericolosi. E Al contrario, temete adesso di prendere l'aereo, il treno, di andare per strada pensando che ci sono persone che non hanno questa patente di perfettamente sano, che potrebbero crearvi dei problemi? 800240024. Giuseppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Ti sei fatto un'idea su questo atteggiamento generalizzato di ricerca del pazzo come unica e probabile punto dolente nella nostra società? Sai Gianluca, la prima cosa che mi è venuta in mente era un parallelo con la nostra attività, con la professione del medico negli ospedali oggi come oggi. I media, compresi tutti coloro, soprattutto tu che lo fai per professione, ma chiunque abbia a che fare con l'informazione, tendono a diffondere il concetto che la medicina dispone di armi sofisticatissime, potentissime, raffinatissime, tecnologicamente avanzate, che curano e risolvono tutto. Per cui quotidianamente chi sta in prima linea, soprattutto nell'urgenza, nell'emergenza, nei luoghi in cui si trattano patologie gravi, si scontra col convincimento diffuso nella popolazione che sia inconcepibile che si possa morire al giorno d'oggi per una grave malattia, perché tutto per definizione deve essere curabile, trattabile, risolvibile con le fantasmagoriche armi che la nuova tecnologia, le nuove frontiere della scienza, propagandate anche da noi medici, portano avanti. Allora ti faccio un esempio. È lo stesso parallelo. Scusa Beppe, siccome a tempo reale sto assaggiando le reazioni del pubblico, ti leggo il primo SMS che mi è arrivato proprio adesso, sì, appena parlavi te. Un ascoltatore scrive, potrei anche chiamarlo al telefono, visto col numero di telefono, e capire il perché di questa sua affermazione. Era una checca in crisi, Bruno. Per Bruno era una checca in crisi, quindi si è dato già la sua spiegazione. Quindi ogni checca in crisi, fra virgolette, come dice Bruno, è un potenziale nemico della società, è un potenziale stragista. Beh, qui partiamo per una deriva abbastanza complessa e articolata che io non penso sia il caso di intraprendere, perché poi sono un pochino opinioni in libertà. No, io voglio dire, analogamente, tu con la capacità che hai poi di seminare zizzania, hai appena fatto un elenco di situazioni che meriterebbero una certificazione di congruità, cioè tutte le persone che dentro di sé hanno quei tratti che tu hai descritto avrebbero bisogno di una specie di patente per andare in giro. Ma allora, tutte cose che a me puntualmente possono capitare nel corso della vita, in varia percentuale, penso che più o meno capiti a tutti in certe occasioni. Questo è inconcepibile, una patente di assoluta sanità. Il problema è che la scienza, quella vera, è fatta di tentativi, di errori, di correzioni, ed è fatta anche della possibilità di sforzarsi di ridurre al minimo dei rischi, di arrivare al minimo tollerabile, ma mai di azzerare, perché lì sta il delirio e la follia, pensare che possa essere portato a zero il rischio che certi eventi si realizzano. Invece bisogna operare cercando di mettere in atto tutti gli strumenti per ridurre al massimo, ma mai azzerare il rischio. Allora, nel caso del pilota, poi ne possiamo parlare se vuoi, non parlerei tanto della possibilità o meno di appiccicargli addosso un'etichetta, che dico subito, secondo me non è quella di depresso o di burnout, ma il problema è chi ha la responsabilità di mettere 180, 150, 300 a seconda della dimensione dell'aeromobile, vite in mano a delle persone, ha adottato, e parlo della compagnia tedesca Lufthansa, non della piccola compagnia caucasica che ne so, Ingusetia Airways, tutte le procedure che garantivano il minimo di rischio, forse confrontando le regole europee, con, o meno di Lufthansa, con quelle della FAA, della Federal Authority of Aviation negli Stati Uniti, si incomincia a capire che per esempio noi potevamo lasciare un pilota da solo, ma gli americani non l'avrebbero mai lasciato, perché ci deve essere sempre una seconda persona accanto a lui. Queste sono procedure che nella sicurezza per i luoghi di lavoro e per le situazioni in cui una o due persone rispondono per la vita di molti altri, in livello internazionale vengono chiamate procedure foolproof, guarda caso, si chiamano procedure a prova di matto. Allora, siamo noi, tra virgolette, cosiddetti sani, sono le autorità che devono essere attente a introdurre procedure che riducano al minimo questo rischio, perché il matto, senza che ce l'abbia scritto in fronte, te lo puoi trovare accanto in qualsiasi circostanza. Mi scrive un ascoltatore, Nicoletti, cosa c'entra un neurologo con la pazzia? Siamo ignoranti sull'argomento, chi lo chiama? L'esorcista, fatemi capire, non so che devo chiamare. Vabbè, ma non è tenuto in linea di principio, ha ragione, la persona che sta parlando, essendo specialista anche in psichiatria, si avventura in valutazioni che non sono specificamente legate al campo tecnicamente e squisitamente neurologico, quindi possiamo procedere. Allora, altra tesi, altro segnale, è questa davvero la verità sul grisastro? Ho seri dubbi in me. Questa forse è la verità che più conviene. Tralascio il versante. Io ho letto sulla rete delle tesi complottiste tutto. Che vanno dalle armi laser ai complotti delle scie chimiche. Sì, trasportava i veleni per lasciare le scie chimiche. Questo era l'inseminazione di cui fanno parte anche le compagnie civili, le compagnie aeree, che devono volare bassi per poter inseminare le scie chimiche. Quindi è un inseminatore. Sentiamo Olga. Olga, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono figlia di uno psichiatra e ho vissuto molto in casa questa cosa della mi è andata bene, non mi si è mai suicidato un paziente, no? E lui diceva sempre, i matti sono fuori, cioè è molto difficile che tu possa controllare quelli che hai, come dire, in terapia, figuriamoci quelli che non hai in terapia. E io effettivamente tutti i giorni vedo persone in giro che si comportano in modo, ma per me è strano, non è assolutamente un problema, dico pericoloso. Chiaro che in una situazione del genere in cui tu affidi la vita di 150 persone probabilmente qualche controllo in più, però è molto difficile dire ma è pericoloso per se stesso o lo è per gli altri, o cioè, per se stesso diciamo tra virgolette chi se ne frega, mentre per gli altri è chiaro che con un lavoro del genere, cioè io credo che sia veramente molto difficile stabilire il confine tra una cosa e l'altra, non mi sentirei di dire semplicemente perché era depresso allora ha portato al suicidio tutte queste persone, si è suicidato, aveva un ego smisurato, voleva fare una cosa per cui sarebbe rimasto sui libri, non lo so. Cioè lei dice, Olga, persone con tutti questi tipi di circostanze nel corso della loro vita non necessariamente poi compiono omicidi. Assolutamente no, ci mancherebbe altro, il depresso generalmente anzi al limite fa del male a se stesso, io ne conosco tanti, sono assolutamente persone innocue, vivono il loro dramma e se lo portano dietro, qui mi sembra se caso appunto lo paragonerei effettivamente a quello che è dell'11 settembre, cioè uno che vuole rimanere nella storia, insomma ci rimane nel male, ma ci rimane insomma, perché comunque se ne continuerà a parlare, più che adesso io non lo so, sì, in psichiatria ci sarà, perché poi dopo tutte le cose si chiamano sempre con una malattia, invece magari uno così ha voluto finire la sua vita in questo modo, insomma. Ecco, Giuseppe Neri, mi viene posta la domanda, diciamo, allora anche un conducente della metropolitana è solo dentro un gabbiottino, un conducente del treno è solo, e anche quelli chi li controlla, è lo stesso tipo di vicenda. Possiamo avere una certezza al 100% che tutte le persone comunque hanno sulle loro spalle la responsabilità di convogli che contengono molte persone, non possano accendersi improvvisamente questa sorta di scintilla per cui per un gesto epico, folle, chiamiamolo come vogliamo, ne facciano un olocausto alla loro gloria e imperitura? È assolutamente corretto il principio, però bisogna differenziare i contesti, cioè per esempio le Ferrovie Italiane hanno avuto dei contenziosi molto seri sul doppio conduttore per la cabina in cui viene guidato il treno, poi un torpedone, un pullman di linea ha sempre due che si alternano autisti, il problema è che un aeromobile che vola e che può essere, se pilotato in un certo modo, portato come è successo sulle Alpi francesi a dare 180 vittime, guarda caso gli americani da almeno 15 anni, dall'11 settembre, hanno imposto che chi sta ai comandi non può essere mai lasciato solo. Se esce uno dei due piloti, entra una hostess, un assistente di volo che accompagna la persona che rimane dentro, che non si potrà chiudere perché una follia che diventino complici di questa cosa è statisticamente molto poco probabile. Poi io vorrei sgomberare il campo sul concetto depresso. Il problema è un altro. Questo verosimilmente era una persona che aveva un disturbo psichiatrico grave, un disturbo in cui il suo rapporto con la realtà era totalmente perturbato, aveva già detto che avrebbe voluto restare nei libri di storia, è andato a scegliere la montagna sulle Alpi della Provenza dove aveva imparato ad andare a volare con l'Aliante e con i suoi genitori da ragazzo, quindi era parte di un piano ben elaborato, estremamente freddo, estremamente lucido, in cui c'era una componente eteroaggressiva, era un po' un'idea muoia San Sole con tutti i filisteri, siccome il mio sogno diventare pilota di linea del grande del lungo raggio, comandante di un jumbo non è realizzabile, siccome mi sta crollando tutto, io porterò in fondo a questa mia fallimento tutti quelli che si trovano con me, perché questo è uno strumento che la società della comunicazione di massa mi garantisce il massimo di visibilità e il mio nome resterà nella storia, perché sono il primo, e lo è, che sono riuscito a compiere un atto talmente devastante per cui il mio nome resterà indelebilmente legato a questo evento, ecco. E questo fa parte del narcisismo che si accompagna a questi disturbi personali. Fermiamo un istante, dobbiamo dare le informazioni del traffico, mi viene in mente, ma l'hanno stracitato tutti, un film a episodi di Pedro Almodovar, il cui proprio il primo episodio era questo, era un pilota che riesce a caricare nell'aereo tutte le persone, gli hanno fatto male nella vita, le donne l'avevano tradito, gli amici che l'avevano fregato sul lavoro, le insegnanti non l'avevano valutato, e li porta in un ultimo volo disperato e si va a schiantare sopra i suoi genitori che stanno in un giardinetto. 800240024, stiamo parlando della follia, la follia come problema generalizzato, paura insondabile nella società, la follia applicata all'evento del pilota che ha trascinato tutto il volo, i suoi passeggeri a schiantarsi sulle montagne. Ho citato questo film di Pedro Almodovar, recente, film episodi sulla crudeltà, sulla cattiveria, sulla follia. C'è proprio questo pilota, l'ho detto, che si porta dietro tutti, dalla prima donna che l'ha tradito, la sua insegnante non ha capito il suo genio, all'amico che ha preso il suo posto, e l'ultimo a parlare, proprio bussando sulla porta della cabina di pilotaggio, dice apri, apri, apri, prima che si schianti, il suo psichiatra, dice sono il tuo psichiatra, non te la puoi prendere con noi, il tuo vero problema sono i tuoi genitori. E infatti lui picchia proprio in quel momento sul giardinetto, le due genitori stanno lì tranquilli a godersi una mattinata di primavera. Assuero, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire a proposito appunto delle responsabilità, perché anch'io ho dei figli che viaggiano in aereo e roba del genere, e partendo da un presupposto che la malattia della depressione, perché di questo si tratta, poi chiamiamola come vogliamo, anche pazzia, però insomma è una, se ne depresso fosse un pazzo la sanità totale non esisterebbe su questa terra. Sì, quello che io invece volevo dire è quello che ci sono delle responsabilità, prima di tutto la famiglia, la quale se la può cavare così con vogliamoci tutti bene, perché ho letto su internet che addirittura è a rischio di atti estremi, e gli atti estremi li doveva far prima curando suo figlio, non cercando un lavoro presso una compagnia di così alta risonanza, e poi la compagnia stessa che ha preso come pilota o come copilota, che ha assunto appunto questo essere, che non è completamente normale, lo sapevano tutti. Allora la famiglia, sulla rabbia mi verrebbe voglia di dire speriamo che prenda un atto estremo, però lo so che sto dicendo, cioè la famiglia dovrebbe suicidarsi per, come fosse una sorta di codice d'onore giapponese, perché sulla rabbia che dico una cosa del genere, però vorrei essere capito. Il ragazzo c'aveva 28 anni, c'aveva la sua vita personale, non credo che a un certo punto la mamma deve andare al signor Lufthansa e gli guardi che mio figlio è un po' strano, stia attento, non lo faccia viaggiare in aereo. Vediamo. Marcello, poi sentiamo Giuseppe Neri. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno, sì. E grazie per la diretta. Sì, il mio punto di vista è un po' diverso, nel senso, un po' diverso e un po' simile, nel senso che alla luce del fatto che negli ultimi 10-15 anni il sistema degli aerovoli è cambiato in maniera fortissima, o meglio si viaggia molto molto molto di più di prima, chiaramente le compagnie che applicano specialmente una politica del low cost si vedono dover assumere, avere tanti piloti in più, fare molti voli in più. Ecco. È probabile che esistano, si verificano per una legge normale della statistica a livello di sicurezza dei problemi. Questo non è dovuto a una persona che è pazzo o meno. È aumentata in maniera esponenziale i voli, eccetera. Abbassa sul livello di professionalità. Qualche giornale lo dice, questo ragazzo non sapeva bene l'inglese, non aveva il patentino livello 4 che è indispensabile. Avevano chiuso l'occhio su tante cose. Questo avviene anche negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti applicano come al solito regole di sicurezza ferre, e che avrebbero evitato come al solito anche in questo caso il problema, cioè bisogna sempre che ci siano due piloti o quantomeno negli Stati Uniti, però è molto facile ogni tanto uno salzi, si prende un mitragliatore, entra in una scuola e faccia una strage, succede, cioè fermare allarghiamolo in generale, il controllo sull'atto folle. Quello che volevamo far capire all'inizio della missione, non può essere preteso, non può esserci mai la sicurezza totale. In questo caso sì, nella fattispecie, molto giustamente dice lei, probabilmente c'è qualche controllo, erano stati di manica larga su qualcosa, ma in generale voglio dire che all'inizio, proprio quello diciamo con Beppe Neri, che non c'è mai la sicurezza al 100%, che una persona possa avere il patentino di intangibilità da ogni tipo di comportamento regolare. Sandro, buongiorno. un pilota. Buongiorno, esatto, un pilota in pensione, comunque ho lavorato 30 anni. Come la vede lei da un punto di vista proprio tecnico questa vicenda? Ma guardi, è una procedura quella del doppio pilota, due piloti che stanno in cabina di pilotaggio, che giustamente per motivi fisiologici, un volo che dura 2 ore e mezzo, ci si può assentare un attimo. Ma quando uno esce a far pipì non è che entra dentro l'assistente di volo, rimane così? Molte volte entra l'assistente di volo, ma quando ci sono situazioni di voli lunghi dove ci può essere un attacco di sonno, ma comunque mai si pensa, come diceva lei, a cose che uno non può prevedere, come le torri gemelle. Noi non prevedevamo mai una cosa del genere. D'altra parte può succedere anche se uno va domani in una metropolitana super affollata di Londra e si porta una valigetta, mica ci stanno controlli. E a quel punto, cioè, qui stiamo assistendo a 2 episodi, quello delle torri gemelle e quest'altro, che non sono prevedibili. È chiaro che sto pilota non doveva volare perché c'era pure il certificato, sicuramente se andiamo a scavare. Però non è che possiamo mettere, sì, 2 piloti, ma se uno è pazzo pure in atterraggio, gira il volantino, l'aeroplano si schianta. Ecco, questa è una cosa molto intelligente. Se anche ci fosse stata un'altra persona vicino, questa domanda le faccio. Se lui avesse comunque avuto questo piano, come diceva Giuseppe Neri, era un piano lucido, studiato da tempo, sia come luogo, come circostanze, sì, e tutto. Se comunque avesse avuto una persona vicino, poteva comunque far casino, se voleva. Secondo me sì, forse poi con modalità diverse, ma poteva lo stesso, se aveva un... Perché ripeto, poi può darsi che lo aveva già programmato, aspettava un momento, sinceramente in questo, però poteva farlo. Va bene, ringrazio Beppe Neri, purtroppo in questa seconda parte non siamo riusciti a sentirlo, ma il tempo ahimè è sempre più veloce, ci corre via sempre più veloce, ma ritorneremo con lui a approfondire questo problema del controllo sulla pazzia, perché mi sembra un problema che ancora non è stato ben digerito dai nostri ascoltatori. Alla prossima.